Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, Buonasera, buonasera a tutte e tutti e tutto lu ascoltatore di Radio Wombat. Questa è Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, giardinaggio, oggi ne parleremo, ne sentirete parlare, e poi botanica, biologia e tutto ciò che ci fa amare l'essere vita nel mondo. Come avete sentito, non sono da sola oggi, ma mi sta accompagnando il mio caro amico, che ormai conoscete bene anche voi ascoltatrici. Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. E quindi oggi continuiamo, come abbiamo già iniziato la scorsa volta, se non sbaglio, con l'audiolibro di un po' più interattivo di un audiolibro normale, ma... di un libro meraviglioso che è E il giardino creò l'uomo di Jorn de Précy, libro fantastico, Bibbia di tutti i giardinieri appassionati, lo definirei. Sì, davvero. Quindi direi che iniziamo subito, ma noi ripartiamo precisamente da dove Vatemi eravamo. Come indispensabile di questi tempi, direi, una lettura consigliata. A pioggia, insisteremo sempre. Leggete. Esatto, o ascoltate, in questo caso. Quindi iniziamo subito, ma dicevo, non riprendiamo da dove mi ero interrotta la scorsa volta, bensì leggiamo una parte, diciamo... Vabbè, lo sentite. Appendicolare. E poi... Esatto. E poi si riparte con il libro. L'enigma di Jorn de Précy. Poco si sa di Jorn de Précy. In luogo di farvi luce, gli scarsi elementi biografici in nostro possesso sembrano rendere ancora più fitto il mistero che lo circonda. Schivo fino all'isolamento rispetto ai contemporanei, a dispetto della sua condotta da eremita, de Précy ha influenzato profondamente l'arte dei giardini, soprattutto quella inglese. Il suo trattato The Lost Garden, pubblicato nel 1912, E il giardino creò l'uomo, circola ancora oggi nelle scuole di paesaggismo britanniche, pur non figurando tra i libri di testo di alcun corso. Un esemplare generosamente annotato dell'opera è stato rinvenuto nella biblioteca del celebre paesaggista inglese Russell Page dopo la sua morte. Il grande architetto di giardini brasiliano Roberto Burle Marx affermò un giorno di aver colto per la prima volta il nesso tra giardinaggio e spiritualità proprio leggendo The Lost Garden. Ma allora, perché non c'è traccia di de Précy nella storia ufficiale del giardino moderno? Perché il suo nome è noto oggi esclusivamente a un pugno di appassionati sparsi per il mondo che quasi ne venerano la memoria? Nato a Reykjavik nel 1837, figlio di un ricco commerciante discendente di stirpe bretone, Jorn de Précy lascia l'Islanda nel 1854. Una fortuna considerevole, forse un'eredità, gli permette di vivere di rendita. Visita Roma e la Toscana, trascorre un intero anno a Venezia e due a Parigi. Qui esordisce come scrittore, carriera di cui non resta purtroppo alcuna traccia. I fratelli Goncourt ne disegnavano un ritratto venato di ironia nel Journal, descrivendo un giovane islandese dallo sguardo assente, perso in qualche sogno astruso, ma capace di commuoversi se si trova faccia a faccia con una rosa appena sbocciata o una quercia secolare nel Jardin des Plantes. Nel 1861 si stabilisce in Inghilterra, trascorre alcuni anni a Londra e quindi nell'Oxfordshire, dove nel 1865 acquista il giardino di Greystone. Non se ne allontanerà che raramente per visitare i parchi del Regno Unito. Ma chi era Jean Duprécy? Un uomo distaccato, timido e orgoglioso allo stesso tempo, talora freddo anche con gli amici, era capace di improvvise generosità e slanci sentimentali. I suoi occhi azzurro ghiaccio mettevano in soggezione l'interlocutore, ma sapevano anche esprimere profonda empatia. Non vi è notizia di vicende sentimentali, e se si eccetto la fedele amica Gertrude Jekyll, la famosa giardiniera, non intrattenne relazioni con donne, neppure di carattere amicale. Risiedeva nella grande dimora al centro del giardino di Greystone, che ebbe l'occasione di definire, citando Chateaubriand, Mon cher désert. A breve distanza, in un cottage, abitava Samuel Bloch, assunto nel 1892 all'età di 27 anni, l'unico giardiniere che abbia lavorato a Greystone. Nella sola fotografia da me rinvenuta del luogo, Duprécy è ritratta insieme a lui, giovane uomo di piacevole aspetto, sorridente e dallo sguardo aperto. Entrambi, il gentiluomo e il giardiniere, sono armati di zappa. Evidentemente hanno appena scavato la buca dove si apprestano a piantare un giovane cedro. Perché effettivamente... Duprécy era un giardiniere filosofo, benché il suo rapporto con la filosofia fosse abbastanza problematico. Amava prendersi gioco dei pensatori di professione del suo tempo, diffidava delle teorie e dei sistemi filosofici e si limitava, il più delle volte, a manifestare le proprie idee senza cercare di approfondirle né di argomentarle. Più che pensare da filosofo, viveva da filosofo. Come i grandi pensatori dell'antichità, cercava prima di tutto di incarnare una visione del mondo, una filosofia dell'uomo, un ideale di vita. Greystone è quindi, fatte le debite proporzioni, l'erede dei grandi giardini filosofici del passato, come quello di Epicuro o di Erasmo da Rotterdam. Alcune delle idee contenute nel Lost Garden fanno ormai parte della nostra visione del mondo. In piena era positivista, però, suonavano assai all'avanguardia. La soluzione dell'uomo massa, la proliferazione di quegli spazi che l'antropologo francese Marc Auger chiama non luoghi della surmodernità, il nomadismo dell'individuo moderno. In maniera di giardinaggio, Duprécy anticipa le pratiche naturali o bio oggi di moda. La sua idea del giardino selvatico viene elaborata molto prima che l'ecologia moderna attirasse l'attenzione dell'opinione pubblica su ciò che minaccia gli ecosistemi più fragili o la biodiversità. L'utopia dell'uomo come giardiniere della terra, cui Duprécy dedica un capitolo del trattato, si ritrova alla fine del XX secolo nel Jardin planétaire del paesaggista Gilles Clément. Questi probabilmente non sapeva nulla di Duprécy, ma la sua idea di giardino in movimento, dove le piante si diffondono liberamente e il giardiniere si limita a regolare il flusso della vita selvatica, si trova già accennata in alcune pagine del Lost Garden. La lungimiranza di tanta sensibilità ecologica lascia sorpresi. In realtà, nel mondo moderno, la coscienza ambientale comincia ad affacciarsi alla fine del XIX secolo. In questo periodo, una nuova branca della biologia, l'ecologia, studia l'ecosistema come gioco di interazioni al quale l'uomo prende parte allo stesso titolo delle altre specie viventi. Alcuni pensatori marxisti inglesi mettono in relazione gli squilibri sociali ed economici provocati dalla rivoluzione industriale con il degrado ambientale che ha luogo sul piano sia paesaggistico sia naturale. Negli Stati Uniti i naturalisti manifestano preoccupazione per i pericoli per la flora e la fauna locale rappresentati dall'espansione delle città e dall'agricoltura intensiva. Chiaramente, l'approccio di Jean Duprécy è ancora rudimentale se paragonato all'ecologia contemporanea e appare più che altro il portato di una visione poetica e spirituale dell'uomo. Più che l'odierna teoria dello sviluppo sostenibile, sembra anticipare l'ecologia profonda, olistica, ma anche il movimento hippie. Come i rappresentanti della controcultura degli anni 60, Duprécy è infatti influenzato dalle filosofie della liberazione orientali, in particolare taoismo e buddismo, già noto in Europa nel XIX secolo. Come loro, egli preconizza il ritorno a una natura primitiva non ancora corrotta dalla civiltà. È una cesura radicale rispetto al consumismo e al conformismo intellettuale della società di massa. Non stupisce quindi trovare tra le tante canzoni composte ma mai incise da Bob Dylan negli anni 60 una ballata dal titolo Yourn's Wild Flowers, cantata nel 1964 a Washington nel corso di una manifestazione di protesta contro la guerra in Vietnam. L'incipit della ballata è esplicito: They say Yourn's Wild Flowers have died, but I saw Greystone in a dream last night, and all the roses started to bloom when I stepped into the garden. Dicono che i fiori selvatici di Yorn sono morti. Io però Greystone l'ho sognato la scorsa notte, e tutte le rose hanno iniziato a sbocciare quando ho messo piede in quel giardino. Greystone era il suo opus magnum, forse il suo solo vero amore. Il luogo, a detta dei contemporanei, era meraviglioso e inquietante. Claude Monet, che lo visita nel 1906, scrive: Il giardino di Monsieur de Précy offre dei quadri di un fascino intenso e indefinibile che vanno dritti al cuore. Il selvaggio si mescola costantemente all'artificiale, il sogno alla realtà. Malgrado il suo aspetto inselvatichito, il parco era sempre aperto. Per visitarlo bastava suonare la campana al cancello. Ad accogliere l'ospite giungeva personalmente il proprietario, vestito di uno dei suoi eleganti abiti un poco logori e con in testa il cappello di paglia, seguito dal giardiniere. Con un gesto cortese apriva la porta al visitatore, stupefatto, e gli mostrava tutto: gli angoli più nascosti, i punti più selvaggi del bosco, dove bisognava aprirsi un varco tra le liane delle clematidi, i fiori e i rovi. A beneficio del visitatore ricordava, con il suo marcato accento islandese, il giorno in cui aveva piantato questo o quello. Gli additava fiero le orchidee nascoste nei prati, scostando l'erba con la punta del bastone. Il titolo del trattato, The Lost Garden, alludeva nello stesso tempo all'emarginazione del giardino nel mondo moderno e all'incerto futuro di Greystone. Sprovvisto di eredi, De Précy aveva deciso di lasciare la proprietà al suo giardiniere. Samuel se ne sarebbe occupato con amore, certamente, ma neppure lui aveva figli. Che ne sarebbe stato del giardino dopo la morte? Purtroppo i timori di Jean de Précy si rivelarono fondati. Negli anni 30, dopo la morte di Samuel, Greystone precipitò nell'abbandono, trasformandosi in una giungla. Nel 1956 la proprietà venne acquistata e trasformata in un hotel di lusso. Oggi dell'antico giardino non resta nulla, tranne qualche vecchio cedro e il tracciato dei sentieri principali, ormai asfaltati e bordati di begonie, fiori che De Précy detestava sopra ogni cosa. The Lost Garden è un trattato singolare. In un certo senso è una biografia botanica. In filigrana vi si leggono la vita, le passioni, le amicizie di Jean de Précy, i giardini che ha conosciuto e amato di più. Gli argomenti che tratta sono completamente diversi da quelli della letteratura sui giardini dell'epoca, di qui probabilmente la scarsa risonanza suscitata dal libro. Stampato in 2000 copie a spese dell'autore, alla sua pubblicazione non fu oggetto di alcuna recensione da parte della stampa specializzata. Quelle 2000 copie, però, continuano a circolare. Può accadere di imbattersi in una di loro, ancora sporca di terra, in un mercato delle pulci di Londra, come è accaduto a me 3 anni fa, dando inizio alle mie ricerche sul giardiniere islandese, in una piccola biblioteca di provincia, o nel salotto di uno dei fedeli adepti di Jean de Précy sparsi per il mondo. Il trattato e una manciata di articoli sono le uniche tracce che ci restano di lui e della sua esistenza solitaria, consacrata al giardino. Nulla è rimasto, che io sappia, della sua corrispondenza, tranne un biglietto stropicciato. Venne rinvenuto per caso nella biblioteca di Greystone durante i lavori di costruzione dell'hotel, sfuggito dalle pagine di una copia del trattato in cui De Précy l'aveva probabilmente dimenticato subito dopo averlo scritto. Era chiaramente indirizzato al suo giardiniere e recitava così: «La prima gelata dell'inverno è alle porte. Questo pomeriggio non si dimentichi di ritirare nella veranda il limone in vaso. Come ogni inverno, certamente, e dopo tanti anni, lei lo sa già, me ne rendo conto. E queste parole che le sto scrivendo non servono a granché. Il giardiniere è lei, io, persino qui, persino alla mia età, mi sento null'altro che un impostore, un falso giardiniere. Continui dunque a portare pazienza con me, Samuel. Il cielo annuncia pioggia, la casa è gelata ed è ora di accendere il fuoco nel camino. La aspetto per il tè stasera. Come sempre, mi troverà accanto alla finestra del salone, mentre guardo fuori, mai stanco di aspettare. Jorn Dupressy morì il 12 novembre 1916, è sepolto nel cimitero di Chipping Norton, villaggio dell'Oxfordshire, a pochi passi dal muro che racchiudeva il suo giardino perduto. Marco Martel. Thank you. Siete, per fortuna siamo noi insieme a voi qui su Radio Wombat, questa è Nervatura e state ascoltando l'audiolibro di E il giardino creò l'uomo, che avete ben capito ora che è scritto da Jorn de Précy, questo meraviglioso questo meraviglioso personaggio. Dunque, quindi, quella che vi ha letto Vincenzo era la parte introduttiva, diciamo, più che doverosa. Sì, una nota sull'autore che fa trasparire tutto il suo mistero, che si continua a corteggiare pagina dopo pagina. Esatto, esatto. E quindi però adesso rifacciamo un passo indietro, in realtà tecnicamente sarebbe in avanti nel libro, e quindi riprendiamo da dove vi avevo lasciate l'altra volta, e quindi si è letto un po' di capitoli e direi adesso quindi di riprendere tutte insieme. Capitolo Il giardino. Luogo di disobbedienza. Gli ultimi rifugi, un flusso ininterrotto di vita, il tempo del giardino, i parchi urbani sono veri giardini? Breve sosta a St. James Park. Ecco dunque dove si rifugiano gli ultimi, valenti dei dell'Occidente, nei giardini. Sono questi la terra d'esilio delle ninfe e dei satiri greci, delle fate e degli elfi nordici, l'ultimo riparo offerto anche all'uomo che sogna di sfuggire all'incubo della storia e agli spazi inabitabili della modernità. Sì, è nel giardino che può riconciliarsi con gli dèi e con se stesso. Dopo quel mattino d'autunno a Seo, questi incontri segreti e fugaci come convegni d'amore clandestini sono diventati per me esperienza quotidiana nel mio giardino di Greystone. La mattina presto, o la sera, come se questi momenti di passaggio fossero più propizi a scoperte di tal genere, passeggio nel mio giardino e sto all'ascolto. Con l'avanzare dell'età mi rendo conto che è soprattutto attraverso l'udito che lo spirito nascosto del luogo si manifesta prima ai miei sensi e poi alla mia anima. Percorro i viali, mi addentro nei boschetti facendomi largo tra gli alberi e i cespugli di rose selvatiche. Ascolto il mormorio del fogliame, il canto degli uccelli e quello più inquietante dell'acqua. Il giardino rinasce giorno dopo giorno nella mia anima, come io rinasco in lui. Seduto presso lo stagno, circondato dalle felci e dalle rose, rivivo lo stato di meraviglia della mia infanzia e ogni volta odo voci giungere alle mie orecchie. Resta da capire perché, per quale ragione i giardini sono divenuti gli ultimi rifugi degli dèi e degli uomini. Perché non possono essere assimilati, malgrado le apparenze, dal mondo moderno, proprio come la poesia, la prestidigitazione o la danza? perché sono sempre utili e mai utilitaristici, quindi estranei allo spirito mercantile borghese. Può darsi che la sola ragione dell'unicità del giardino sia il fatto che la sua materia prima è la natura, cioè la vita. E la vita è tutto ciò che sfugge al potere della società, che ha raggiunto un alto grado di civilizzazione, ciò che essa per il momento non è ancora in grado di trasformare in merce. Un giardino, il filosofo puntiglioso mi perdonerà la banalità di questa affermazione, è un luogo sempre brulicante, un concentrato di vita. Mentre sto parlando, nel mio giardino gli steli delle piante continuano ad allungarsi, le gemme diventano fiori o foglie, gli insetti depositano le larve, le api trasportano il polline, sotto la superficie dell'acqua i gerini si trasformano in rane e così via, in un formicolare creativo che non conosce sosta. Persino in inverno, sotto la superficie gelida, il terreno freme di vita. Le foglie morte si decompongono a formare l'humus vitale. Certi semi si risvegliano piano. Certe radici si spingono più giù a esplorare l'oscurità della terra. Persino un povero fiore originario del Madagascar o del Brasile, che costringiamo a schiudersi sotto i nostri cieli settentrionali, respira, beve, si nutre, si esprime con il suo colore, il suo profumo, il suo ondeggiare nel vento. E poiché si tratta di una crescita costante, il giardino è sempre in movimento. Senza posa, modifica le sembianze sotto l'effetto del vento, del sole e delle imprevedibili peripezie della vita, proprio come voi e me. Questo flusso vitale ininterrotto è ciò che i saggi cinesi chiamavano Tao, la via. Tutto è nel Tao, dicevano, e cercare di allontanarsene è solo causa di infelicità. Il tempo del giardino è dunque quello della vita. Non ci spinge in avanti come il tempo meccanico che ormai governa le nostre esistenze, perché un vero luogo ci radica sempre nel tempo presente, qui e ora. Non vi sono scopi da ottenere, né obiettivi da raggiungere, perché la vita ha un solo fine, ed è se stessa. Lo stesso la bellezza, che nasce costantemente dal processo vitale. All'opposto del sistema capitalistico, che necessita di una crescita costante per sopravvivere e che richiede sforzi infiniti agli uomini che vi sono sottomessi, il mondo naturale cresce spontaneamente e basta a se stesso, in un lento, dolce, eterno presente. Questa è la lezione del mondo vegetale. Ritrovare questa vita, la vera vita, e questo tempo della natura, che è anche il nostro vero tempo, il tempo che conosce il nostro corpo animale. Ecco cos'è che ci spinge ad aprire il cancello di un giardino e a entrarvi, ogni volta come se ci accingessimo a entrare in un mondo a parte sepolto dentro di noi. Questo è il dono del giardino. Ecco, in poche parole, la ragione per cui a partire dal secolo scorso, cioè dall'inizio della rivoluzione industriale, il giardino entra in contraddizione con la modernità che lo circonda. Certamente ciò è vero soprattutto per i bei giardini che il passato ci ha lasciato in eredità e che resistono alle barbarie dei restauri moderni o agli assalti dei turisti. Ma che ne è dei grandi parchi che vediamo sorgere attorno a noi, da Central Park a Hyde Park, passando per i giardini e i parchi pubblici di Parigi, come quello di Buttes-Chaumont. Questi parchi urbani sono destinati, secondo la terminologia corrente, all'uso pubblico e non hanno che uno scopo: offrire ai cittadini, separati dalla natura e incessantemente immersi in uno scenario grigio di fumo, spazi in cui respirare meglio, in grigio di fumo, degli spazi in cui respirare meglio, camminare a passo più lento, sedersi, prendere tempo, quello stesso tempo che cercano di guadagnare nel resto della loro vita. Lodevole iniziativa, non vi è dubbio, ma come non ravvisare in questi luoghi dei surrogati dei giardini del passato? Le grotte di roccia che si allestiscono per divertire il pubblico e offrirgli graziosi, pittoreschi scenari sono parodie delle grotte dei giardini dell'antichità, fatte per risvegliare la nostra capacità di meravigliarci. E cosa dire di quelle statue di primi ministri, re, generali, goffe imitazioni delle sculture che un tempo rendevano il mistero del giardino ancora più misterioso? Le cose peggiori, però, sono sicuramente i falsi tempietti greci e romani, in cui non si celebra più nulla se non i riti innocenti dello svago borghese domenicale. Oh, sento già le espressioni di protesta del lettore. Fervente partigiano del progresso, egli naturalmente mi accusa di elitismo. Nella nostra società democratica, dice fremendo di indignazione, i parchi sono istituiti dalle autorità pubbliche per il bene collettivo, non a uso personale di principi e ricchi oziosi. E meno male! Per caso mi auguro che si ritorni all'epoca dei re, degli abusi e dei privilegi? Vorrei solo ricordare al lettore che, come molti parchi principeschi europei, il parco di Versailles non era frequentato solo dalla corte, ma anche dalle persone qualsiasi. Forse si stupirà, apprendendo che i proprietari delle ville romane del XVI e XVII secolo lasciavano aperti i loro giardini al popolino, affinché si istruisse contemplando le bellezze della natura e dell'arte. Riciterò un amico filosofo italiano a detta del quale i bei parchi antichi non erano fatti per i principi, ma affinché chiunque in essi potesse comportarsi da principe. Ciò detto, devo ammetterlo. Non ho dimenticato i piacevoli pomeriggi di quiete e di lettura da me trascorsi in gioventù negli incantevoli parchi pubblici di Parigi. Di tanto in tanto alzavo lo sguardo e osservavo l'agitazione dei boulevard attraverso le recinzioni e le fronde delle betulle e dei salici. Come non amare quei luoghi d'ozio? Per non parlare di quei giardini parigini che la notte si animano di ombre furtive e di una vita di cui la città non conosce assolutamente nulla. Anche questi urbani sono... questi parchi urbani sono abitati da un genio? Possiedono un carattere unico, quell'atmosfera che fa di un semplice spazio un vero luogo? Sono, alla maniera dei giardini antichi, degli strappi del tessuto delle città, dei luoghi, tra parentesi, un po' come i palcoscenici dei teatri, i cimiteri o i manicomi? Per saperlo, seguiamo quest'uomo che cammina per strada. Per qualche ragione, che egli stesso non comprende, rallenta la sua andatura da persona affaccendata ed esita davanti all'ingresso di un giardino, diciamo di St. James Park. Chiaramente si sta recando nel suo ufficio, a Piccadilly o sullo Strand. Indossa un abito molto sobrio e sotto braccio stringe l'immancabile cartella. Apparentemente tutto in lui è prevedibile. È una bella mattina d'inizio primavera. Più precisamente è il momento in cui il giardino conserva un poco il suo aspetto invernale, mentre la terra già freme nell'attesa di sbocciare. Gli alberi sono spogli, ma i prati, non ancora rasati, iniziano a riempirsi di minuscole primule. Lo spazio vuoto del giardino, lui, si riempie della luce fredda del sole. Tutto in questa stagione intermedia è ampio, lento e silenzioso. Sarà il contrasto con la città? Si direbbe, in ogni caso, che il giardino ha chiamato il nostro impiegato che, senza sospettare nulla, spinge il cancello ed entra. 5 minuti rubati alla sua giornata già piena in anticipo, perché no? Ora passeggia a passi incerti. Cosa vede? Un antico parco reale, uno dei più belli d'Europa, trasformato in un giardino pubblico, ma che ha saputo conservare qualcosa del suo antico splendore. Dietro l'apparenza ben ordinata, un luogo dal carattere forte ma indefinibile, come tutti i veri luoghi. Dell'acqua scintilla sotto il sole, un poco più lontano. È un lago. Sui rami delle rose, i primi boccioli, futuri fiori. Sedie, vuote o occupate da oziosi, donne o vagabondi taciturni. Che fare, sedersi? Continuare a camminare lungo quei viali che non smettono di biforcarsi? Alla fine il nostro impiegato si siede su una panchina. Chiude gli occhi per proteggerli dal sole, ed ecco la voce del vento, come se quel luogo non fosse nel centro di Londra ma in campagna. L'uomo ricorda altri giardini, altri momenti altrettanto piacevoli e tranquilli. Pensa anche a certi luoghi che non ha mai visto ma di cui sogna da sempre. Le steppe canadesi abitate da interminabili silenzi, la giungla indiana dove templi inauditi appaiono all'improvviso in mezzo alle piante e alle liane. E Dio sa che cos'altro. E questo abbandonarsi deve essere ben dolce, perché il nostro impiegato, un poco stupito di se stesso, lascia che si prolunghi. Gode di tutto ciò che lo circonda, come un animale pigramente disteso al sole, semplicemente felice di trovarsi là. Ha dimenticato il tempo che scorre. Già, il tempo! Dovrebbe bastare questa parola a farlo sobbalzare, strapparlo alle sue fantasticherie. Invece lo diverte. L'impiegato la fa girare nella mente, la assapora. E da cosa nasce cosa? Pensa al tempo degli spartiti musicali. Ecco che, infatti, ode delle note. Chi suona della musica a quest'ora del mattino, in questa stagione? Apre gli occhi. No, il chiosco, un poco più in là, è deserto. Però è proprio una musica a pervadere il giardino, appena udibile, sempre sul punto di svanire nell'aria. L'impiegato sorride. Che accade nel suo cuore? In questo istante, egli respira all'unisono con il giardino. Ogni tessera di quel puzzle, che è l'esistenza, va al suo posto. Abbandonato così a lungo, l'impiegato ha ritrovato, senza rendersene conto, l'unità di tutto il proprio essere. La battaglia tra corpo e anima, tra ragione e sentimento, che, lo sappiamo bene, affligge l'uomo moderno rendendolo una creatura lacerata, estranea a se stessa, a poco si è esaurita. E il nostro amico non desidera più, non cerca più nulla, perché qui la verità non deve essere inseguita, ma si dà in ogni istante. Egli accetta il mondo quale è. Ora però dobbiamo risvegliarlo. È seduto così già da una buona mezz'ora. Arriverà in ritardo. Lasciamo che si alzi e si riscuota, come se riprendesse coscienza, ed è subito in mezzo alla folla, che cammina lungo il mall. Tra pochi minuti non penserà più alla sosta a St. James Park, o forse sì, e non la dimenticherà. Il ricordo di questo momento di libertà si è depositato da qualche parte nel profondo del suo spirito. È una bella mattinata d'inizio primavera. Il giardino appare ampio, lento e silenzioso. Sottoterra ribolle la nuova vita. Bentornati in diretta. Andiamo avanti con questa lettura sublime, suggestiva. Il giardiniere animista, capitolo il giardiniere animista. È vero che i giardinieri parlano le piante? Un mistero da coltivare, non da spiegare. Breve elogio della modestia. Il borghese e il giardiniere idiota. Come ho affermato in un precedente capitolo, noi abbiamo perduto il diritto di credere alle divinità del luogo. Vi sono però dei momenti nelle nostre vite in cui inavvertitamente lo facciamo. Parlo evidentemente dei momenti in cui ci dedichiamo al giardinaggio, perché esiste una strana forma di credenza che io chiamo animismo del giardiniere. Contemplando una pianta rachitica del nostro giardino, diciamo a sete o a fame e corriamo al capanno a cercare un innaffiatoio o una palata di concime. Arriviamo persino ad affermare cose come «questa rosa è abbastanza freddolosa» oppure «non ama il sole forte del sud» e così via. Il giardiniere, che sia il proprietario di un parco o l'orticoltore della domenica di qualche sobborgo di grande città, si rende conto di essere un essere vivente in mezzo a esseri viventi. Mediante ciò che fa, rinnova il legame perduto con il selvaggio che sonnecchia nell'uomo civilizzato. Di fronte alla bellezza e al mistero del fenomeno naturale, riscopre senza sosta il senso del sacro, come gli uomini primitivi. Sa che non è solo a lavorare nel suo giardino. Sì, qualunque cosa si accinga a fare, piantare un nuovo albero o seminare una nuova varietà di insalata, è subordinata a volontà superiori, spesso imprevedibili, che possono modificare la direzione del vento, far scendere o salire le temperature e introdurre all'improvviso una specie di insetti nocivi. Sa benissimo che non otterrà alcun risultato se si affiderà esclusivamente alle proprie capacità e alla propria tecnica, per quanto perfezionata essa sia. Egli accetta questa condizione mentre impreca contro il cielo. Sì, gli dèi talvolta gli sono ostili. Per qualche inspiegabile ragione, di tanto in tanto si accaniscono a ostacolare i suoi progetti di piantagione o di semina, ma ci sono. E nel profondo dell'anima il giardiniere prova riconoscenza nei confronti della natura per questo gioco che continua a offrirgli e per la felicità che ne ricava. E allora, perché stupirsi se tanti giardinieri nelle nostre isole britanniche e tra loro rispettabili borghesi e signore massimamente civilizzati sono convinti di aver visto le fate nel punto più remoto del loro giardino? Il giardiniere lavora tutti i giorni con l'invisibile. La moderna biologia gli insegna le leggi e i meccanismi che governano il mondo vegetale. Gli spiega come le foglie fabbrichino gli zuccheri utilizzando l'energia della luce e perché talvolta il seme sia avvolto dalla carne succosa del frutto. Sono questi, dicono gli scienziati, alcuni segreti che l'uomo è riuscito a strappare alla natura. Il giardiniere sorride tra sé. Ciò è davvero interessante, ma non è tutto. Anzi, non è quasi niente, perché dietro un segreto ce n'è, grazie a Dio, sempre un altro. Per quale diavolo di motivo bisognerebbe spiegare i prodigi del mondo vegetale? Cosa sarebbe la natura senza questi piccoli e grandi segreti? Il giardiniere, lui, preferisce coltivare il mistero del suo luogo. Lo protegge come si fa con un tesoro, modesto ma assai prezioso. Queste dissertazioni filosofiche e piuttosto astratte, però, non lo coinvolgono veramente. La sua mente è costantemente assorbita da preoccupazioni ben più terra-terra. quando potare gli alberi da frutta, quale rimedio impiegare contro i pidocchi che divorano quest'anno le rose, cosa piantare accanto ai giovani rododendri per smorzarne il rosso troppo vivace dei fiori. Il giardiniere ha tuttavia uno sguardo da filosofo quando scruta il cielo e il passaggio delle nuvole. Con la passione del poeta interroga il mondo che lo ospita e che è infinitamente più grande di lui. Interroga questa forza che vede all'opera ovunque attorno a sé, dallo schiudersi del più minuscolo dei fiori di prato all'innalzarsi possente della sequoia. Tutto, tutto è sempre nuovo e prova meraviglia davanti a qualsiasi cosa accada nel giardino: la nuova orchidea nata da un seme portato da un uccello, la rosa selvatica che si è arrampicata sul tronco di una grande quercia alla maniera di una liana della giungla, il fogliame del liriodendro che in autunno diviene rossiccio. Evidentemente non sto parlando del giardiniere che ha il compito di piantare ogni anno centinaia di orribili begonie o di tulipani nelle aiuole, di strappare le erbacce nei vialetti o tagliare interminabili siepi di ligustro. Questo giardiniere, che incontriamo spesso nei giardini pubblici, in uniforme verde e dall'aria infelice, è pagato per tenere in ordine. Espressione che dovrebbe essere bandita dal vocabolario del giardinaggio. Somiglia all'operaio condannato a eseguire in una fabbrica male illuminata operazioni ripetitive che non chiamano in causa né la sua creatività, né la sua intelligenza, né il suo cuore. No, parlo del vero giardiniere, quello che opera insieme alla natura e con il genius loci, quello che senza posa, lavorando, gioca con il mistero del mondo vegetale. Parlo del giardiniere poeta. Questo giardiniere è l'essere più umile della terra. Ha un amico che mi chiedeva non molto tempo fa quale sia la più grande qualità di un amante del giardinaggio. Ho risposto senza esitare: la modestia. Gli ho citato versi di un poeta praghese secondo il quale il sentiero che porta all'opera si percorre in ginocchio, perché un vero giardiniere deve dare costante prova di umiltà e cancellarsi davanti alla propria creazione. La sua opera deve incessantemente ricominciare e va, come egli sa bene, oltre lui. Il suo è un lavoro certosino, minuzioso, fatto di amore e di pazienza, da svolgere in disparte dal mondo, illuminato da una fede profonda e dolcemente cieca. Certi giardinieri del nostro paese sono veri artisti, compongono le loro bordure mescolando fiori dai colori vivaci, come se fossero pittori. Hanno familiarità con i segreti delle piante e con l'arte di disporre le essenze in modo che producano effetti a un tempo naturali e raffinati. Ma quando visitate un giardino e questo vi piace, non andate a complimentarvi con il giardiniere. Se lo sorprendete carponi dietro un cespuglio, cesoie alla mano, non spiegategli che neppure Renoir o Monet sarebbero in grado di comporre quadri più deliziosi e che l'equilibrio di forme, colori e abbinamenti che ne risulta è un'opera d'arte. Molto probabilmente lo vedreste arrossire come una matura zitella, lo sentirete rispondere imbarazzato che lui non ha fatto praticamente nulla. E poi lo vedrete allontanarsi verso il fondo del giardino. Fu così che molto tempo fa feci la conoscenza di Miss Gertrude Jekyll, la più geniale dei nostri giardinieri e certamente la più artista di essi. Avevo appena visitato il suo meraviglioso giardino di Munstead Wood ed ebbi l'idea sciocca di andare a complimentarmi con lei mentre stava lavorando nell'orto. Non ricordo quali frasi manierate proferii per esprimerle la mia ammirazione. Ricordo però bene come abbassò lo sguardo verso i mucchietti di terra che aveva appena rivoltato La mia buona stella volle che riuscissi in seguito a riguadagnare la sua fiducia e poi ad annoverarla tra i miei pochissimi amici. Ma ecco il segno più distintivo della modestia del giardiniere. A dispetto dei luoghi comuni sul giardinaggio, egli non aspira a dominare lo spazio in cui opera e a cui dà forma insieme alla natura. Nel suo piccolo universo non si considera, per citare Corneille, il padrone. Non è al di sopra del suo luogo, è sempre nel suo luogo. Tutto ciò che desidera è che quello divenga giorno dopo giorno più bello. Sa che il suo giardino è l'opera più effimera che vi sia e per questo lo ama. Sa che probabilmente non gli sopravviverà e ciò talvolta lo rattrista, ma non gli impedisce di portare avanti con gioia il lavoro quotidiano. Ne trae un piacere troppo intenso per rovinare tutto con ambizioni insensate. A che diavolo gli servirebbe dominare il suo giardino, si domanda scuotendo la testa con il buon senso dei contadini. Così, alla maniera del luogo di cui si prende cura e al quale vota gran parte del suo tempo, il giardiniere non ha molto da spartire con la modernità. Umile fin quasi all'invisibilità, è uno degli ultimi dissidenti del mondo moderno, uno dei pochissimi che osano disobbedire e vivere secondo i propri principi, non seguendo quelli imposti dalla società. E ciò che lo rende più commovente ai miei occhi è il fatto che non è neppure cosciente. Un ribelle suo malgrado. Anche in questo è vicino al poeta, ma anche al gitano e al ladro. Certamente, una volta che avrà svestito gli abiti da lavoro sporchi di terra e indossato di nuovo quelli civili, ritroverà il suo ruolo sociale e le sue maniere urbane. Ma per il momento, finché lavora al giardino, di tanto in tanto getta un'occhiata verso il mondo al di là del muro di cinta e non lo comprende fino in fondo. Perché tutto quel chiasso e quell'agitazione? Perché quella fretta? E poi, perché correre senza tregua, sempre in cerca di Dio sa quale sollievo, quando basta abbassare lo sguardo verso la terra? E l'onesto borghese, che lo osserva sorridendo condiscendente, mentre lo vede mormorare qualcosa all'albero che ha appena piantato o alle rose che sta annaffiando, non ha torto a prenderlo per un bambino o per un povero idiota. Ma che bellezza questa musichetta, oh che bellina, come dice il nostro profeta Giovannino. Ma io, cioè, mi dà veramente l'impressione che Jarrett e questo caro Jor de Pressy abbiano scritto insieme questa musica e questo libro. Senza dubbio. Fantastico. Non può che essere così. Infatti avete appena ascoltato appunto Kate Jarrett, ma di cui avevo già mandato un altro brano anche prima, invece intervallato da Paolo Fresu e poi Abdullah Ibrahim. E come sempre comunque vi metterò tutti i riferimenti sulla descrizione del podcast dal sito radiowombat.net. E tutti questi musicisti sono d'accordo con il nostro Jorn, mi sa, eh? Sicuramente. Sono tutti d'accordo, non senti com'è tutto armonioso, ritorna tutto, è tutto... Confabulano tutti insieme. Combacia tutto, è impressionante ragazzi. Sì, sì, fanno tutti parte dello stesso complotto. Sì, bellissimo, stupendo. Esatto. Dunque, avrete benissimo capito, cari ascoltatori, ascoltatrici e ascoltatori, che siamo giunti alla fine di questa seconda puntata dell'audiolibro, appunto del libro E il giardino creò l'uomo, anche detto The Lost Garden o Jardin Perdu, quindi giardino dimenticato, diciamo, tradotto. E ce ne saranno sicuramente almeno un'altra di puntata di audiolibro, probabilmente altre due, e quindi speriamo tantissimo che continuerete a ascoltarci, a seguirci, perché a questo punto almeno un po' di curiosità ce la dovreste avere e un po' di voglia e di passione in più. Dunque, quindi vi salutiamo, vi auguriamo una buonissimissima serata a tutte e tutti. Rimanete ovviamente connesse su Radio Wombat per continuare a sentire il nostro meraviglioso palinsesto, Bobina, e chi più ne ha più ne metta, mi raccomando, guardate sempre il sito per tutti gli aggiornamenti. Buona Wombat a tutti. Esatto, grandissimi saluti a tutte e tutti. Buona serata. Bye bye.